9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 20 di giugno, auguri a tutti coloro che si chiamano Ettore, perché questo è il santo del calendario liturgico e sapete che lo scrupolo è semplicemente mio, quello di consentire a tutti di essere ricordati dal conduttore di Pro Tempore, non temete, non durerò ancora chissà per quanto. Oscar Giannino qui da Radio 24, la versione di Oscar anche oggi Doors, perché ieri al G20 avete visto, se avete sentito i telegiornali, i giornali radio, c'è stato comunque, come era preventivato, un assedio da parte dell'America, da parte della Cina, dei paesi emersi, non più emergenti, nei confronti di questo pessimo regalo che l'Europa fa al mondo intero, rallentando nella crescita con la dilazione della nostra crisi. L'idea prende corpo, attribuita all'Italia, di usare le munizioni finanziarie dell'FSF per operare acquisti di titoli sugli spread per i paesi in particolare difficoltà, e facendolo per la prima volta non solo mirato alla difficoltà maggiore se testimoniata dal maggior spread, ma anche con un metro che tenga in considerazione le virtù dei paesi che vengono egualmente attaccati ma avendo meriti diversi. In altre parole, l'Italia chiede che il sostegno sia più per sé che per gli altri, perché noi siamo in equilibrio di bilancio e in avanzo primario l'anno prossimo, a differenza di altri che hanno deficit pubblico molto più elevato del nostro. Quindi, in ragione del fatto di avere un bilancio migliore e di esserci anche per questo sottoposti quindi ad andamenti del PIL peggiori degli altri, chiediamo, e abbiamo approfittato del palcoscenico del G20, un sostegno asimmetrico, a noi più favorevole. Vediamo adesso se nel percorso internazionale che passa per l'incontro a quattro tra Monti, Angela Merkel, Hollande e Rajoy, prima del Consiglio europeo del 24, questa idea prenderà ulteriormente piede. In ogni caso, sui mercati si ballerà comunque. Stamattina gli spread partono bassi, partivano intorno a 430. Continueremo a monitorare nel corso della giornata. Prima di arrivare all'ospite, consentitemi cinque parole sulle parole pronunciate ieri dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che oggi trovano un'ampia eco sui quotidiani, perché il presidente Squinzi, che è un uomo che ha creato un'impresa multinazionale e contemporaneamente non è un astuto, per così dire, manipolatore della parola, parla pane pane, vino al vino, questo è il suo stile di comunicazione ed è uno stile di comunicazione molto apprezzato da imprenditori meno sofisticati, che non sono praticamente politicanti di professione. Ieri ha dato un giudizio sulla riforma del lavoro che oggi trova ampia eco su tutti i giornali, come le ha trovate ieri sera sui telegiornali. In altre parole, usando apposta un eco di un semantema, di un'espressione che ha fatto la storia del costume italiano, Giorgio Squinzi è come se avesse detto, e scegliamo apposta questo montaggio di cui chiediamo scusa per farvi capire qual è stato non l'incidente ma il trucco di comunicazione, l'abilità della comunicazione, è come se avesse detto: per me la riforma del mercato del lavoro è una cagata pazzesca! Eccoci qua, l'avete riconosciuta la voce di Paolo Villaggio, Fantozzi, nel primo libro di Fantozzi. Il termine non era questo usato in una trasposizione cinematografica, bensì era una boiata pazzesca. E subito dopo, nella riga successiva, Fantozzi racconta 96 minuti di applausi. Ecco, allora, il presidente di Confindustria ieri si è permesso di usare questa espressione, una boiata, a proposito della riforma del mercato del lavoro, per intendere cosa? per intendere, come aggiunto subito dopo, che essa va naturalmente approvata, bisogna che il Parlamento la approvi così com'è, e aggiunto il perché, perché al Consiglio europeo bisogna arrivare col pacchetto delle riforme più possibile avanzate. Ciò non toglie che questo pensi l'impresa del contenuto della riforma per il giro di vite all'ingresso sul mercato del lavoro, che renderà per le piccole imprese che utilizzano più delle grandi gli 8 canali diversi dai contratti a tempo indeterminato per entrare nel mercato del lavoro, il giro di vite più l'aggravio contributivo, il solito Stato che prende per sé come se non prendesse abbastanza questo ubriaco tossicodipendente, beh, è difficile che questo porterà più domanda di lavoro. E su questo non c'è variopinta prosa, non c'è immaginifica dichiarazione d'amore come quella di Giuliano Ferrara, il volubile commentatore del centrodestra, che definì il governo Monti e quindi la Fornero un golpe nelle prime settimane, mentre noi ci davamo da fare per spiegare come Berlusconi si dovesse levare dai piedi un golpe. E invece, nella volubile prosa dell'immaginifico direttore del Foglio, adesso questo è diventato il governo non solo che incarna Berlusconi, non so quanto Monti e la Fornero siano d'accordo, ma in cui stamattina, all'indomani della durissima dichiarazione in Senato della Fornero che non riesce a fare chiarezza sul numero degli esodati, e in questo mi dispiace non si può essere d'accordo né con lei né col vertice dell'INPS, addirittura la divina Elsa, titolo del Foglio di oggi, diventa la mia morosa ideale. E come la volubilità possa seguire in un percorso estetico il relativismo dei valori, questo diventa il giornalismo italiano. Molto più modestamente, gli imprenditori pensano che se si alzano i contributi e si appesantiscono gli aggravi in un paese in recessione, sarà difficile che questa riforma ci dia possibilità di fare lavoro aggiuntivo. Tutto qui. E aggiungono pure, allargando le braccia, ma siamo responsabili. Votatevi questa riforma. Invece le immaginifiche prose si scatenano nelle dichiarazioni d'amore. E vabbè, assisteremo un giorno forse a questa... matrimonio dei volubili, i volubili di chi non sanno fare i numeri degli cittadini e dei lavoratori oggetto delle loro misure, dopo sei mesi ancora non riusciamo a capire. Questa commedia non è una commedia degli esodati, non è una cosa messa in piedi dalla CGIL. La vicenda degli esodati insieme a quella dell'IMU sono i due più potenti fattori che hanno abbassato la fiducia delle famiglie italiane in questi sei mesi, purtroppo prima ancora dell'erosione reddituale patrimoniale che hanno ingenerato. Guardato sul giornale di oggi troverete non a caso qual è la percentuale al ribasso oltre il 20% delle compravendite immobiliari su un mercato già estremamente flat, come era piatto, come era quello italiano. Però questo era solo per dirvi, e adesso andiamo al tema dell'ospite della puntata, che forse a tenerci un po' di più, a non alzare i toni, perché se il capo degli imprenditori, dopo che Confindustria da mesi ha spiegato come la pensa, dice vabbè, votatevela pure per senso di responsabilità, però non pretendiate che ne venga un immediato accrescimento della domanda di lavoro da parte delle imprese, è una posizione responsabile, e per di più detta anche con un po' di sorriso amaro nell'angolo della bocca, tant'è che per questo si evoca il linguaggio di Paolo Villaggio. Invece poi sui giornali diventa un tornado, c'è addirittura chi usa l'aggettivo cretino, il presidente di Confindustria, ma comunque a me viene abbastanza da sorridere, perché invece la posizione, la condizione del paese e dell'Europa è molto seria. Ma oggi abbiamo un ospite straordinario nella nostra trasmissione, abbiamo un ospite straordinario, sentirete un rumore perché sto spostando il microfono. Ecco qua, spero che non sia stato eccessivamente abrasivo per i vostri padiglioni auricolari. E abbiamo un ospite che è straordinario. Perché? Perché è direttore generale della banca più internazionalizzata che abbiamo in Italia, e quindi di questi tempi, di queste settimane, di questi mesi, è ovvio che il sistema bancario è al centro delle tensioni e dei rimbalzi delle tensioni dei mercati europei. Sto parlando, la banca è Unicredit, il direttore generale è Roberto Nicastro, che ha accettato di stare con noi una mezz'oretta per parlare di un'iniziativa straordinaria che ogni anno oramai, sistematicamente da diversi anni, Unicredit fa, e poi per parlare un po', commentare con noi della condizione appunto dei mercati, delle banche e dell'Europa, di che cosa attendersi. Intanto buongiorno e grazie a Roberto Nicastro, il direttore generale di Unicredit. Buongiorno Tosannino, buongiorno agli gentili ascoltatori. Allora, l'iniziativa, in un quadro in cui bisogna sforzarsi nel dichiarare, come facciamo noi tutti i giorni, le cose che non vanno, però bisogna anche sforzarsi di dire la verità. Questo è un paese in cui, malgrado la pressione fiscale, il corpo di regole amministrative pervasive, l'andamento su degli spread, la tensione irrisolta dei 2 anni e mezzo dell'eurocrisi. Malgrado tutto questo, c'è un export che con 22 punti di produzione industriale fa valori superiori a quelli del pre-crisi, e c'è un fiorire continuo comunque di imprese in filiere avanzate di tecnologia, oppure che hanno delle trovate di innovazione nei processi, nei prodotti. E ogni anno, per questa è l'iniziativa da cui partiamo, Unicredit da un po' di anni a questa parte, dal 2004 a questa parte, ha organizzato un premio che si chiama OK Italia, in cui ogni anno sceglie di premiare delle imprese, tra l'altro non sono imprese clienti, cioè non è una forma di autopromozione della banca, che ogni anno intorno a un tema in particolare dell'innovazione e della crescita italiana sceglie dei piccoli, medio, grandi campioni, spesso imprese che hanno pochi anni e che si stanno affermando nella realtà del mercato domestico e soprattutto internazionale intorno a delle idee di innovazioni. E il premio che c'è oggi pomeriggio nella versione 2012 è dedicato alla digitalizzazione. Allora, possiamo partire da qui, Nicastro? Se dovesse dire da questo punto di vista che cosa emerge nella scelta delle imprese che andate a premiare oggi, è stato uno dei temi più ricorrenti in questi ultimi mesi, l'agenda digitale è stata presa con il disegno di legge presentato dal governo venerdì scorso, certo. Una decisione importante per questo, per semplificare i 3 diversi corpi pubblici che se ne occupavano e tentare di promuovere la cosa, ma insomma tra chi premierete oggi, qual è il messaggio che arriva? Ma guardi, il messaggio che arriva molto forte è che in realtà mentre la vulgata, il pensiero tradizionale è che le tecnologie di informazione, l'innovazione molto avanzata richiedono economie di scala, richiedono economie di scopo, in qualche modo dovrebbero essere patrimonio esclusivo quasi delle imprese grandi o medio grandi, la realtà che emerge molto molto netta è che di fatto invece molto spesso le tecnologie di informazione e innovazione sono lo strumento che aiutano come dei piccoli a diventare grandi. Con questo premio oggi andiamo a riconoscere dei risultati eccellenti che sono stati fatti proprio attraverso la digitalizzazione da 15 imprese di dimensioni molto piccole. Stiamo parlando di imprese che in buona parte dei casi hanno meno di 10 dipendenti, imprese che hanno innovato o i processi produttivi, ma molto spesso proprio anche il prodotto e l'esperienza del cliente, grazie a un uso estremamente avanzato della digitalizzazione, cose che come prima di leggerle ti sembra che possano fare, come dire, solo dei colossi aziendali. Penso a temi come la telemedicina, quindi la prestazione di consulenze mediche a distanza, penso, forse questo è più tradizionale, a temi quali l'offerta, disegno, distribuzione di campagne pubblicitarie virali, tutto fatto online. Penso ad esempio all'uso appunto delle tecnologie di informazione per fare ordini, monitorare commesse online da parte di tipografie per clienti che sono anch'essi altre piccole imprese. Oppure faccio un altro esempio molto concreto che ci è piaciuto molto, questo salone di bellezza di Lodi che praticamente ha costruito attraverso l'iPad un modo con cui si può simulare il cambio di look che il cliente può avere, diciamo, quando va a farsi la messa in piega o il cambio di pettinatura, no? Cioè, cose che appunto in realtà vengono proprio prestate da aziende piccolissime e che su questa base innovano e anche, diciamo, in mezzo alla crisi che stiamo vivendo riescono invece a guadagnare quote di mercato, a prosperare, a crescere, eccetera, insomma, portando anche un messaggio positivo. E tra l'altro c'è anche a questo proposito, quindi non pensiate che sia semplicemente la scelta di fornitori o di imprese nazionali, multinazionali che si occupano solo di ottimizzazione di fibre e cose. C'è per esempio anche una pasticceria, ho visto che tra l'altro mi ha fatto fatto molto sorridere perché la conosco, è una pasticceria di una signora venezuelana di origini austriache che ha questa passione per i dolci e che ha messo al servizio, per così dire, la digitalizzazione della crescita aziendale anche qua, perché siccome fanno ovviamente servizi di cucina a domicilio, di catering per ogni occasione, anche qua ovviamente il rapporto con il cliente attraverso il digitale può essere un volano, un drive di crescita straordinario. Senta Nicastro, ma si rende conto che molti degli ascoltatori immediatamente qua mi stanno chiedendo, ma chieda a Nicastro, al di là del fatto che un banchiere, insomma, la testa di un grande gruppo, non può che essere positivo e ottimista, d'accordo, nella realtà, se dovesse dirci quello che ha visto in questi ultimo anno e mezzo di crisi europea, l'avvitamento degli ultimi mesi, poi il rilancio continuo della crisi, la sfiducia evidente che i mercati hanno, a prescindere poi dai problemi veri dei diversi paesi, perché l'Italia non ha i problemi della Grecia, il Portogallo ne ha i propri, ha un grande debito pubblico, eccetera, eccetera, ma dovesse dirci a oggi, qual è il suo grado di... quanto è tosta rispetto a com'era nel 2008-2009? Stiamo pur sempre parlando di una banca che oggi sul mercato viene, per dare l'idea come sono i mercati matti di questo periodo, è una banca che vale meno di tutti gli aumenti di capitale solo più recenti che ha fatto. E purtroppo non è quella che sta messa peggio rispetto a banche italiane che valgono, oramai siamo arrivati a un sesto, un settimo dei mezzi proprio a bilancio, cioè siamo delle valutazioni che sono così. Allora, dovesse dirci, a oggi, secondo lei, c'è qualche segno per cui bisogna essere ottimisti, oppure questa è una specie di lunga traversata in un mare che diventa da forza 7 a forza 8, da forza 8 a forza 9, ed è solo la selezione di chi poi alla fine avrà scafi tali da reggere tempeste imprevedibili e chissà quanto ancora duratura? Lei come la vede dal suo punto di comando? Ma guardi, allora, due riflessioni. Diciamo, credo che la parola traversata in qualche modo sia una parola corretta, nel senso che di fondo, al di là di tutto, quello che abbiamo è un problema che riguarda buona parte dei paesi OCSE, non solo l'Europa, che è un problema, diciamo, di riaggiustamento rispetto ad insomma, almeno un paio di decenni in cui più o meno tutti, e tutti ci metto l'Europa, ma assolutamente anche gli Stati Uniti, anche il Giappone e diversi altri paesi, di fatto hanno vissuto sopra i propri mezzi, no? E quindi tante le cose che leggiamo, insomma, poi quando le riguarderemo un po' di anni di distanza le vedremo come il fatto che era un riaggiustamento in qualche modo necessario. Ciò detto, in questa prospettiva tanti, diciamo, elementi un po' estremi, no, che mettono paura rispetto a possibili crolli, rispetto a secondo noi, diciamo, rischiano di essere sopravvalutati, no? E non è nemmeno vero che il tempo passa in vano. Se pensiamo ad esempio al tema della costruzione europea, credo evidentissimo che, diciamo, la soluzione passi attraverso una unione fiscale, un'unione bancaria, come si dice, più forte, e quindi in realtà passa attraverso quello che inevitabilmente viene ad essere, diciamo, una insomma anche un sistema di negoziati politici, no? E quindi non è una cosa che si riesce a fare dalla sera alla mattina come si vorrebbe. Però se guardiamo, diciamo, le cose successe nei passati 12 mesi, oggi da quel punto di vista si è significativamente più avanti rispetto a 12 mesi fa. Lo stesso ruolo della BCE è molto più netto e distinto, ci sono aspettative importanti verso questo vertice della settimana prossima, chiamato G4, no? Quello che si fa a Roma. Credo che sia importante dal punto di vista di tutti mantenere, diciamo, la barra del timone ferma, nel senso che appunto non siamo di fronte a un cambiamento e a qualcosa che, diciamo, si sistema in 10 giorni, però insomma non ci sono assolutamente nemmeno ragioni per essere, diciamo, catastrofisti. Abbiamo di fronte, diciamo, una serie di passi che andranno fatti su base europea, che stabilizzeranno, ricordando, e questo è molto importante perché il problema sta in Europa, ma oggi l'Europa, se la vediamo a livello consolidato, l'Europa sta meglio oggi, sta meglio di quanto non stia come dire, il sistema economico statunitense o il sistema economico giapponese, no? Il problema è la frammentazione dei processi decisionali politici, ma di fronte abbiamo un continente che ha una sua chiara e netta solidità. Allora, da questo punto di vista, quello che cerchiamo di fare noi come banca, anche rispetto, diciamo, al rapporto con i clienti, quello di appunto guardare avanti, perché in realtà, diciamo, ci sono molte ragioni per mantenere, non direi tanto un ottimismo di fondo, ma mantenere un pensiero positivo che è assolutamente giustificato. Nicastro, adesso torniamo poi dopo la pubblicità sui temi dell'unione bancaria, quali passi avanti fare, come concretamente potrebbero prendere forma e che cosa potrebbero significare poi per il mercato italiano e per le grandi banche italiane, che cosa potrebbe cambiare. Però prima una domanda, perché questa domanda viene dal, diciamo, dal profondo di ciò che abbiamo toccato con mano in questi ultimi mesi con la campagna qua di Sperati Mai. Noi ci siamo aperti ad ascoltare, a tentare di rilanciare le voci di decine di migliaia di piccoli imprenditori che ci hanno letteralmente coperto di lettere descrivendo situazioni in cui, oltre alla pretesa fiscale accresciuta dello Stato, quasi sempre era proprio il problematico rapporto con la banca che doveva rientrare, diciamo, l'altra lama della forbice che veniva lamentata e descritta come la condizione di discontinuità che attentava e continua ad attentare alla continuità di molta piccola e piccolissima impresa italiana che lavora per il mercato domestico. E le faccio una domanda, ma non perché voglia imbarazzarla, semplicemente per dare l'idea di quante volte, lei non ha idea, Nicastro, davvero, quante volte in questi mesi, in quelle lettere, c'era sempre un caso che rientrava in molte di quelle lettere, perché, come è evidente, lei non può che saperlo, per il piccolo imprenditore che si vede negata la conferma del castelletto e poi gli si chiede di rientrare di fronte alle difficoltà di liquidità, il fatto che la gente non lo paga, in moltissime lettere c'era un esempio concreto. E l'esempio concreto era, secondo me, una delle vicende che più in questi mesi ha purtroppo fatto torcere le budella a molti piccoli imprenditori italiani. Che cos'era? Perché c'era la riproposizione della disparità nel rapporto. Non le chiedo un giudizio sulla vicenda, ma devo ricordargliela. È una vicenda che riguarda il sistema bancario, non riguarda solo questo o quella banca, anche se naturalmente poi c'è chi è più per così dire coinvolto nei rapporti con quel, cioè la vicenda Ligresti, perché tantissime, proprio migliaia di quelle lettere ci dicevano: come faccio io a non capire che in realtà, di fronte ai numerini del mio rating che deve rientrare e al fatto che non trovo un ascolto, ci sono vicende, ed era sempre quella citata perché c'era tutti giorni quella sui giornali, esitata adesso in fallimenti, ma che era una vicenda che anche al piccolo imprenditore italiano che aveva poco tempo gli rappresentava ai suoi occhi la disparità del merito di credito e il fatto che naturalmente c'è poi un rapporto relazionale che ovviamente di fronte a dimensioni ben diverse del piccolo imprenditore, però ai loro occhi diceva: ecco qua, che chi in Italia ha credito e per far cosa rispetto a noi no. Allora, io non sono qua a chiedere un giudizio sulla vicenda dei Gresti, ci mancherebbe, però quando queste vicende si producono è evidente che contribuiscono poi all'erosione del margine di fiducia che gli italiani nei sondaggi mostrano nei confronti del sistema bancario, che poi è un po' singolare perché sono sfiduciati verso il sistema e però sono fidelizzatissimi verso la banca con cui hanno i conti. Allora le chiedo, ma di fronte a questo, che cosa può fare il sistema bancario e le banche per evitare che la gente però inevitabilmente, soprattutto perché è con l'acqua alla gola, pensi: qua sono figli e figliastri? Certo, diciamo, comprendo che a fronte, diciamo, della lettura magari quotidiana dell'evoluzione del caso Ligresti si possa, diciamo, avere come dire, una sensazione di un certo tipo. Guardando così la realtà magari un po' fredda dei numeri, la realtà dei numeri ci dice che i rapporti difficili tra banche e mondo delle imprese diciamo, riguardano in realtà tutte le categorie di clienti, non riguardano, diciamo, solo i clienti grandi. In effetti l'Italia è un paese in cui circa il 90% dei rapporti creditori riguardano imprese di piccola e media dimensione, e diciamo, quei casi lì, come dire, vanno meno sui giornali, tra virgolette, no? Nei fatti la crisi, diciamo, ingenera molto la necessità per tutti di come dire, stringere un po' il rapporto, no? La banca in questo contesto la cosa che deve cercare di fare è riuscire, diciamo, a conoscere meglio la situazione della specifica della singola impresa. All'impresa si chiede invece una disponibilità ad essere aperta, trasparente sui propri conti e, diciamo, per quanto attiene all'imprenditore, a mettere in impresa una quantità di capitale superiore a quanto facesse in passato. Cioè, nel bene e nel male, il passato, che era un passato, diciamo, in cui c'era amplissima liquidità, ha portato, come dire, su entrambi i fronti forse a sottovalutare alcuni aspetti che in una relazione sono invece fondamentali, che sono molto, diciamo, gli aspetti, diciamo, di empatia reciproca, tra virgolette, no? È giustissima l'aspettativa dell'imprenditore che la banca non guardi esclusivamente, diciamo, ai freddi numeri di bilancio, ma guardi anche a ciò che l'impresa rappresenta. È altrettanto giusto e corretto da parte della banca chiedere all'imprenditore di essere molto trasparente nel raccontare come le sue cose vanno e anche di diciamo, metterci del capitale, no? L'Italia, purtroppo, noi lo vediamo da banca che opera in 21 paesi, è il paese in cui c'è un po' il contesto della famiglia ricca impresa povera, no? Nel senso che sostanzialmente i patrimoni ci sono, ma non vengono messi in impresa, e sono messi in impresa rendono anche più rischioso quello che è il mestiere di banca. Diciamo che un frutto buono della crisi può essere il frutto in cui, come dire, ci si capisce meglio e se ne esce, e appunto, come dicevo prima, con un rapporto nuovo. Da questo punto di vista va tenuto presente che rispetto, diciamo, al tema del credit crunch, no, di cui si è spesso parlato, no, in questi ultimi mesi, esso nasce da una considerazione che purtroppo è una considerazione di sistema. Le banche italiane raccolgono dalle famiglie circa, diciamo, per ogni 100 euro di depositi che raccolgono, danno a famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche circa 115 euro di finanziamenti, no? Dice, ma gli altri 15 dove vai a prenderli? In passato sostanzialmente le banche italiane sono andate a prenderle all'estero questi 15 euro di differenza, no? Perché i mercati internazionali erano molto aperti verso i imprenditori italiani e quindi i mercati internazionali hanno consentito che gli impieghi e i finanziamenti potessero crescere in maniera significativa. Quando con il 2011 è arrivata la crisi sovrana, la crisi del sistema Italia, l'estero ha smesso di finanziare tutte le controparti italiane, ha smesso di finanziare il governo, ha smesso di finanziare direttamente imprese grandi italiane che andavano sui mercati internazionali, ha smesso di finanziare anche le banche italiane. Quindi questo cosiddetto credit crunch è di peso e nasce dal fatto che, diciamo, i depositi, che poi sono la base con cui le banche italiane possono dare i finanziamenti, sono inferiori rispetto agli impieghi complessivi. Secondo lei, ma è proprio così giusto che seguire una linea, io la chiamo un po', si chiama così in gergo tecnico, di repressione fiscale? La repressione fiscale significa tecnicamente porre tutto come priorità l'accentramento in mano di intermediari e risparmiatori italiani, il sostegno di una quota crescente del debito pubblico. Noi avevamo il 46% di debito pubblico fino a inizio 2011 in mani straniere, quindi eravamo un paese con una forte componente estera nel nostro debito pubblico. Adesso siamo a un terzo ed è in via di rapido decremento, quindi voi banche avete ripreso a comprare con la liquidità venuta dalla Banca Centrale Europea i titoli del debito pubblico. Naturalmente lei capisce però che agli occhi degli imprenditori e delle famiglie il fatto che però non ce ne sia è a sostegno dello Stato, che già ci prende tanto a noi. Questo non è un meccanismo, un secondo, da ripensare? Cioè, non sarebbe meglio che la quota estera, invece di diminuire il debito pubblico, salisse? Lei mi dice sì, ma se non ci sono gli acquirenti, ma se non sono gli acquirenti dobbiamo vivere per lo Stato e anche voi anteporre la vostra operatività quotidiana di liquidità pensando allo Stato come prima emergenza da soddisfare. Per quanto sarà così e con che conseguenze? Ma guardi, allora, una cosa, dunque, innanzitutto poi ogni banca, diciamo, ha il percorso suo. Per quello che ci riguarda, noi per esempio non abbiamo aumentato l'acquisto in titoli di Stato in questa fase, anche se, diciamo, i numeri di sistema invece per il sistema nel complesso danno invece un'indicazione diversa, però credo che ogni intermediario, diciamo, faccia la propria politica. Da questo punto di vista il tema è tra l'altro il seguente: i quattrini famosi della BCE a cosa sono serviti? Sono serviti in larga misura appunto a sostituire questi deflussi di depositi verso l'estero. In stragrande maggioranza sono stati depositi di investitori stranieri, ma attenzione, ci sono stati anche deflussi di cittadini italiani verso l'estero, perché i depositi sono cresciuti molto meno di quanto non crescessero in passato. E peraltro, quindi, i quattrini BCE hanno consentito, per esempio, l'avvio della cosiddetta moratoria, no? Quindi la possibilità, diciamo, di dare dilazioni di pagamento, di fatto di rinviare, diciamo, il rimborso del debito a un momento successivo. Non mi nascondi il tuo dito, so benissimo che il desiderio di avere maggior credito, soprattutto dal punto di vista, ancora una volta, di dilazioni di pagamento, è maggiore. Il punto è che abbiamo oggi una coperta molto molto corta in Italia, no? E il problema, forse, se andiamo a vedere la radice, nasce dal fatto che il nostro è un paese in cui ci sono da una parte famiglie molto ricche, perché sono famiglie tra le più ricche d'Europa e tra le più ricche del mondo, dall'altra parte però pochi quattrini delle famiglie vanno direttamente all'economia nella forma di depositi bancari, capitale nelle imprese o acquisto di titoli di Stato. La stragrande maggioranza è finita nel mattone. Quello che possiamo definire come una virtù individuale, perché, come dire, per ciascun italiano il mattone è percepito come un investimento sicuro, buono nel tempo, eccetera, ma anche un vizio collettivo, perché poi se tutti vanno nel mattone, quello che si verifica è che di fatto pochi quattrini appunto stanno a disposizione dell'economia reale. Allora, queste cose evidentemente non si possono cambiare dalla sera alla mattina. Siamo evidentemente in un percorso in cui, diciamo, i vari attori economici dovranno muoversi con gradualità. E il punto d'arrivo, probabilmente un punto d'arrivo in cui una percentuale maggiore di debito pubblico sarà detenuta da cittadini italiani, da residenti italiani, ma mantenendosi comunque nel tempo, grazie a un'innovata fiducia verso il sistema paese, anche un importante investimento estero, per cui un buon equilibrio tra i due è assolutamente necessario. Auspicabilmente dall'altra parte dobbiamo, diciamo, sperare e vedere aliquote crescenti di risparmio degli italiani che vanno o direttamente nelle imprese o in banca, perché effettivamente l'economia, diciamo, ha bisogno di liquidità per funzionare. La BCE non può che fare interventi, come dire, quasi, diciamo, da farmaco temporaneo, però alla fine il paese deve contare sulle proprie risorse e le risorse ce l'ha, quindi dobbiamo gestire un processo di riallocazione delle risorse verso l'economia reale. E io, da questo punto di vista, infatti per questo ogni tanto urlo e grido dicendo abbattimenti del patrimonio pubblico per far fronte al debito pubblico, e invece sul conto economico pubblico fortissima taglio di spesa corrente per, a parità di saldo, abbattere le tasse, perché la mia idea è che, proprio siccome nella forza comparata c'è il patrimonio degli italiani come uno dei maggiori punti di forza, secondo me, se noi lo indirizziamo prioritariamente al sostegno, ancora una volta, del pubblico, commettiamo un po' un errore, perché in un paese a bassa crescita dopo decenni quel patrimonio degli italiani, che è più elevato sia come linea media che come mediana praticamente di tutti i paesi avanzati, grazie al fatto che le famiglie italiane sono state formiche e non cicale come lo Stato, quella roba lì la dobbiamo indirizzare, come ha detto Nicastro, appunto alla crescita dell'economia reale. Questo significa che chiunque creda invece in patrimoniali, ancora una volta, per lo Stato, in repressione fiscale, innanzitutto compriamo i titoli, eccetera eccetera, secondo me pregiudica ulteriormente la possibilità del paese di ripartire. Siamo già in una condizione in cui le famiglie italiane devono intaccare il patrimonio per sostenere i livelli di reddito, che sono a meno 4% rispetto a 20 anni fa. Pensiamoci tutti bene, e pensateci tutti bene voi che siete in ascolto di fronte poi alle proposte politiche. L'ultima domanda che faccio a Nicastro è: con questa unione bancaria, da quello che si è capito e da quello che potrebbe essere assunto come decisione o come percorso al prossimo Consiglio europeo, per una grande banca italiana e per il sistema bancario italiano cambia davvero qualche cosa, che ci siano vigilanze unificate, criteri di intervento unificati e non ogni paese a casa propria a far pasticci con, e magari a diluire o a sottovalutare i problemi, come è capitato per Dexia, come ancora adesso i tedeschi non vogliono che si parli poi di più di un quarto del loro sistema, che è pubblico, e delle Landesbank? Per noi cosa cambia? Ma guardi, due riflessioni da questo punto di vista. Allora, primo, le banche italiane credo abbiano dato anche nella crisi, diciamo, una grandissima prova di solidità, perché pur avendo, diciamo, accantonato oltre 20 miliardi di euro su perdite prevalentemente legate alle piccole e medie imprese, perché ci sono anche i casi di gresti, ma la realtà è che poi diciamo la stragrande maggioranza delle sofferenze sono legate, d'altra parte l'economia italiana è fatta così, al mondo delle PMI, ma malgrado diciamo questo tra l'altro, costo sostenuto per la crisi, sono anche le uniche banche in Europa che non hanno avuto bisogno di aiuti pubblici e hanno tenuto diciamo con grande solidità. Ciò detto, siamo in un'economia aperta, anche le nostre banche sono molto molto interconnesse col resto del sistema bancario europeo e quindi andare verso delle forme di garanzie centralizzate dei depositanti, andare verso una vigilanza centralizzata in tutti i paesi è certamente un passaggio importante e positivo, perché una stabilità del sistema finanziario e bancario europeo significa anche maggior benessere e maggior stabilità per il settore bancario italiano e quindi secondo noi è un passaggio estremamente importante e abbiamo aspettative significative per appunto questo prossimo D4. E speriamo anche che sia un riequilibrio di come il mercato valuti fondamentali della banca, visto che fino a questo momento in realtà poi le italiane sono state molto penalizzate rispetto a banche, la cui qualità degli attivi, mi prendo la responsabilità di dire, banche nordiche, è secondo me inferiore rispetto all'azione che è stata condotta nel nostro paese e rispetto al fatto che non c'erano agenti tossici già da prima. Comunque un grazie a Roberto Nicastro. Un augurio per il premio che continuate a organizzare anche oggi per il prossimo anno e mi raccomando, pensiamo alla fiducia di questi poveri clienti italiani, senza dei quali del resto poi Unicredit come tutte le banche, se non pensassero a costruire fiducia è come se si sparassero nei piedi, quindi sono sicuro che non è questa l'intenzione, gli effetti sono poi altre cose. Sentiamo qualche telefonata, cominciamo da Paolo da Milano, prego Paolo. Giannino, buongiorno, mi scusi, ma Squinzi sarebbe il nuovo presidente di Confindustria con questa uscita qua? È il nuovo presidente di Confindustria, le confermo, sì. Ecco, allora, ma allora a questo punto ridateci Romiti, neanche la Marcegaglia, cioè Romiti, non... Dica perché. Ma perché? Ma non si, come si fa a definire una boiata pazzesca una riforma di questo livello qua? Una riforma... riforma che si ispira alla flex security di stampo danese... Alt, fermo, no! Basta sentire Pietro Ichino che si ispira alla Flex Security, come sa non ha niente a che fare con l'impianto di questa riforma. Io non voglio contestare, le piace molto, va bene Paolo, però non ci dica che è la Flex Security, perché il rapporto di Pietro Ichino, che non a caso prevedeva che per i licenziamenti economici ci fosse solo l'indennità come costo noto ex ante, è totalmente ciò che la riforma non ha fatto. Paolo, prego, però io non voglio interrompere. No, prego. Allora... No, lei già mi ha interrotto perché mi ci parla sopra, voglio dire, ho detto che si ispira ai principi della flex security, non ho detto che è come la flex security. In ogni caso acquisiamo nuovi diritti con l'ASPI, per esempio, le aziende hanno la possibilità di manovrare in un certo senso se le difficoltà economiche per ristrutturazione, eccetera, eccetera, voglio dire, una frase così, vabbè, insomma. Vabbè, legittimo Paolo, la pensi diversamente. Accettiamo scommesse se il giro di vita e l'aumento dei contributi farà più occupazione. Io ti dico che con l'aumento dei contributi si fa meno occupazione. Tutto qua. Tutto qua, è molto semplice, poi del resto non c'è nessuna grande battaglia di civiltà, avete detto approvatela perché figuriamoci, detto questo io purtroppo prevedo che la previsione di una minor domanda da aggravi non sono più diritti, è meno lavoro per tutti e meno crescita per tutti, voglio sbagliare, voglio sperare che Paolo abbia invece ragione. Benissimo, appuntamento a questo punto a domani.